voi del basso Averno, dei tardi venite, a te di tre sembianti, eca testita, a te o Tartare o Giove, giuro di chi è latino, aborrirsi dol nome. Giuro l'odio, la guerra, e sopra questa lapide che il mio piede sacra preme calpesta. Giuro votar del sangue dei rubelli, con labbra siti bombe, a voi dinante, col matazza sfumante. Tito giura, io son Tito e son romano, pegno del cor che giura, ecco la mano.